Hello? Ah, fratello, cosa c'è? No, no, no, oggi non ci sono, non ci sono, figa. Non ci sono, chiama qualcun altro, no, non posso uscire, no, figa. Devo fare una cosa per mia madre, figa. Non posso uscire, fratello. Sono impegnato. Se mi chiami non rispondo. Se mi cerchi non mi trovi. Sto scopando, non mi rompere il cazzo. Sto scopando, figa bianca sul mio cazzo. Sto scopando mentre tu mi chiami. Io non vengo, qui sei un maschio. Yo, tap sul mercato reparto sul tap. Quando ho incontrato tua madre pazzara, io ho detto bella fra, sempre con la puttana di Natasha. E allora la mamma mi ha detto ma chi con la bagascia di Natasha? E io le ho detto io sì, cogliona di merda, tu sei la mamma di Pieroculati, vero? La puttana mi dice di sì, e io gli caccanere tanto rotticolo. Bella Pieroculati, prova di sangue sei morto. Come il mio culo nel Cristo risotto, ho mangiato nel culo della Natasha il risotto. Bella Pieroculati, hai provato a dissarmi ma perderai, perché sei scarso come letto termo il bonder dal ramo di Tiasquenti. In un attimo dovevo mangiare Pieroculati, bella macchina pesciolino. Questo è ciò che si prova di essere Harry Graponi. La morte, questo è ciò che prova tua mamma pazzo in culo a mangiarsi la merdoccia. Bella fraga, mamma è una merda. Se mi chiami non rispondi. Se mi cerchi non mi trovi. Sto scopando.